Bene, noi abbiamo pensato di portarvi una mezz'ora circa fatta di letture da un libro che ci sta molto a cuore, che è I piccoli maestri di Luigi Meneghello. Luigi Meneghello è stato partigiano anche lui e ha voluto scrivere un libro non retorico, ma sentito, vero, sulla sua lotta partigiana. E ci pareva anche perché, anche se lui è scomparso da poco, ci pareva giusto leggere questi brani perché ha voluto passare il testimone, ha voluto far sì che non si rimanesse solo nel ricordo, nella memoria, ma anche si proponesse per il futuro. Per cui pensiamo che sia la cosa più adatta da leggere per il 25 aprile. E direi che andiamo a cominciare. Il governo italiano, riconosciuta l'impossibilità di continuare l'impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi di qualsiasi provenienza. Parlerò d'amore e coglierò una rosa. Non c'è più dolce cosa per far tacere il cuore. Ti parlerò d'amore con voce sospirosa. Non c'è più dolce cosa per far tacere. Il vicentino Luigi Meneghello di Malo, l'8 settembre del 43, quando sente il proclama di Pietro Badoglio, era alla scuola degli ufficiali degli alpini, a Tarquinia. Cosa ci faccia un alpino a Tarquinia lo sa solo la gerarchia militare fascista. Capisce subito che il proclama Badoglio significa tutti a casa, ma non che la guerra è finita. E quindi quando arriva a casa con il suo amico Lelio, così scrive di quei giorni. Lelio e io avevamo una mezza idea di doverci mettere noi due da soli a fare i ribelli. Non avevamo pensato seriamente al problema di chi altro potesse interessarsi. Fummo presi in contropiede. Il mio paese era pieno di gente come noi. Era irriconoscibile il mio paese. A ogni ora arrivavano soldati dai quattro cantoni dell'orizzonte e tutti si cercavano. Cercavano noi, volevano fare qualcosa, organizzarsi. Ci riunimmo all'aperto, fra le piante, alla fontanella. Venne tutta la gioventù del paese. Mi veniva una specie di smania euforica, pestavo i piedi per sfogare la fretta di cominciare, di fare presto. C'erano popolani e borghesi, militari e civili, studenti, riformati, commercianti, qualche storpio, gente di chiesa, ladri, maestri, c'erano tutti. Mi vergognavo un po' di trovarmi a parlare troppo spesso perché avevo studiato a Padova e tutti che mi ascoltavano. Parlavo fitto e pulito come un libro stampato. I libri stampati bisognerebbe bruciarli tutti, pensavo, e quelli che li sanno a memoria, bruciarli anche loro. Questo però non glielo dicevo perché non si sa mai. Fatto sta che avvertivo il disagio di sentirmi giudicato idoneo a dirigere perché capace di parlare. Parlare mi era facile, bastava aprire bocca e venivano fuori idee, iniziative, programmi e una volta venuti fuori parevano autorevoli. È un bel vantaggio l'educazione umanistica. Chi sa parlare comanda. Ma io ce l'avevo con questa educazione umanistica, me ne aveva fatte di sporche. Non volevo comandare, però parlavo. E dicevo: non fatevi influenzare da nessuno, tanto meno da me. Fate quello che vi pare giusto. E tutti dicevano: bravo Ostia, facciamo come dice lui. C'era un moto generale di rivolta, un no radicale, veramente spazientito. Ce l'avevano tutti contro la guerra e implicitamente, confusamente, contro il sistema che prima l'aveva voluta cominciare quella guerra e poi l'aveva grottescamente perduta per forfè. I partigiani che si sono radunati, i futuri partigiani, concordano subito che la prima cosa che serve a un partigiano sono le armi. E allora devono procurarsi le armi. E dopo lunghe discussioni dovute anche all'educazione umanistica, si concorda che il modo migliore per procurarsi le prime armi è rubarle ai soldati in servizio a Vicenza, dopo averli storditi con una bastonata. Però anche questo causa dei problemi. Se lo scopo è la scancellazione corporale del disarmando, ogni mezzo è buono. Ma se lo scopo è solamente la sottrazione della pistola, bisogna scegliere con cura. E scelto con cura tra la legna da ardere un cilindrico paletto dalla scorza bluastra, sospirando, decidemmo di bendarlo con delle fasce. Noi non possiamo non dirci cristiani, disse Lelio. La sera, a Vicenza, giravamo per le strade in piccole pattuglie di amici, a tre, tutti con l'impermeabile, tutti con le mani in tasca. Quello in mezzo aveva il paletto. Sceglievamo con cura gli ufficiali. Ci mettevamo a seguirli. Il paletto uscì di tasca alcune volte e salì anche in aria. Ma se il bersaglio cammina, il momento che il paletto si alza, l'intervallo tra esso e la testa automaticamente si allunga. Decidemmo di sdoppiare le squadre. Uno viene avanti, ferma l'ufficiale dicendo: scusi, ha un fiammifero. Gli altri due arrivano da dietro e usano il paletto su un bersaglio fermo. L'ufficiale si sedette per terra. Con le mani tremanti per l'eccitazione gli sbottonammo la fondina di cuoio, ma era vuota. La pistola non c'era. Vigliacchi traditori, non avevano neanche le pistole da mettere nelle fondine degli ufficiali. Tra un atto di valore e l'altro, si passa da Vicenza all'altipiano. I partigiani devono scappare, i tedeschi li prendono sul serio, i partigiani devono andare sull'altipiano vicino ad Asiago. E lì il problema principale è la fame, ovviata dai lanci aerei degli alleati americani, canadesi. E qui i partigiani per la prima volta conoscono il fast food. Dall'aria arrivavano di notte campioni di roba da mangiare molto esotica, una specie di manna moderna, più bella che buona, come io ho sempre sospettato che fosse anche la manna biblica. C'erano alcuni rotoli di uno strano prodotto chiamato bacon, composto principalmente di sale, e anche qualche scatola di una pallida pasta liscia che non sapeva di nulla ed era formaggio canadese. E c'era la polvere d'uovo. Questa non era affatto appetitosa, ma la prima volta che arrivò, mentre noi stavamo lì a guardare perplessi il pacchetto, Lelio e un ragazzo di Roana si fecero forza e si misero a mangiarsela con le mani. Lelio ne mangiò una manciatella, poi si fermò. Il ragazzo di Roana mangiò tutto il resto del pacchetto e ci beve sopra una borraccia d'acqua perché gli impastava la bocca. Poi si sentì male e gli altri si misero a fargli bere dell'altra acqua per rianimarlo. Quando entrò in coma, lessi cos'era scritto sul pacchetto, perché c'era una scritta in inglese che diceva: polvere ad altissima concentrazione, 100 uova di gallina canadese, mescolata con l'acqua, riacquista il volume naturale. Il ragazzo di Roana era più di là che di qua. E mi dissi, tutto dipende dalla velocità di fermentazione. Fu infatti una gara di velocità. Ora pareva che vincessimo noi, ora la fermentazione. Alla fine, avevamo vinto noi. E il ragazzo di Roana si riprese. Ma in seguito, bastava dirgli cocodè per farlo svenire. La mia mamma me lo diceva, non andare lassù in montagna, mangerai sol polenta e castagna, ti verrà l'acidità. Mangerai sol polenta e castagna, ti verrà l'acidità. La mia amorosa me lo diceva, non andare con i ribelli, non avrai più i miei lunghi capelli sul cuscino a riposar. Non avrai più i miei lunghi capelli sul cuscino a riposar. Io lo loi di di loi di di loi di di loi di di loi di di loi di di do. Io lo loi di di loi di di loi di di loi di di loi di di loi di di do. Se non ci ammazza i crocchi, se non ci ammazza i bricchi di crepacci e il vento di Marenca, se non ci ammazza i crocchi, se non ci ammazza i bricchi, quando saremo vecchi ne avremo da raccontar. Passa il tempo e, ovviato il problema della fame, i ribelli devono cominciare a fare i ribelli. Devono fare azioni di guerriglia, devono... Basta parlare, non si deve più parlare, si deve agire. E il ragazzo Di Malo deve sparare e uccidere anche. E scrive poche righe, però forti, su questa cosa di sparare e uccidere. Perché dice, sparare addosso alle persone, se capita per incidente, non fa impressione. Si cammina per il sentierolo di monte a notte fatta, con l'elio in Valstagna. A una svolta del sentierolo l'elio salta, pare un gatto. In un lampo esplode qualcosa di multiplo. Ti investe una ventata, un globo di baccano. Sbatti per terra col petto e col viso. Spari anche tu come un matto, da sotto in su. Queste due cose che ti rotolano addosso sono uomini ammazzati. Ma questo non è niente. Altra cosa, col ragazzetto tedesco sull'altipiano. Aveva detto di aver disertato per unirsi a noi. È stato qui qualche tempo, poi ha tentato di scappare. È stato preso e dopo un po' ha confessato. È una spia. Non abbiamo scelta. Siamo tutti d'accordo, anche lui. Gli abbiamo legato le mani con lo spago in questa piccola dolina di roccia. Si domanda a questo biondino se vuole lasciar detto qualcosa per qualcuno a casa sua in Germania, se saremo ancora al mondo alla fine della guerra. Esita, poi dice di no. Gli si domanda chi vuole che resti con lui e lui sceglie. Gli altri vanno via. Si sentono ronzare le api. E qui la stagione è tarda per loro. Si è in piedi. Quasi ci si tocca. In una specie di scossa. Pare di morire insieme. Thank you. La guerra continua e le cose cominciano ad andare meglio per gli alleati, cominciano ad andare anche per i partigiani, che scendono a valle. Arriveranno addirittura a Meneghello, arriverà anche a Padova. E prima però di parlarvi dell'insurrezione di Padova, di cui Meneghello è uno degli artefici, volevo leggervi una cosa piccola legata all'esperienza personale, a una memoria. Perché non solo i partigiani hanno fatto la guerra, non solo l'esercito, non solo gli alleati, ma anche i civili, che come spesso capita nelle guerre sono quelli che patiscono di più, sono quelli che prendono le bombe quando ci sono i bombardamenti. E uno in particolare mi ha colpito. Vi racconto brevemente la storia. E parte da una mia esperienza personale. Io facevo l'animatore per le scuole, per il comune, l'estate. E una volta era nel luglio del 99 al Bastione Impossibile di Padova. Festa finale dei centri estivi del comune, nel giardino della scuola di Via Raggio di Sole. È chiaramente costruita su un bastione di quelli, le mura veneziane antiche, quelle che ha fatto costruire Venezia quando litigava con tutti nel Rinascimento. E io però non avevo tempo per il turismo, perché senza voce, completamente disperato, stavo inseguendo un branco di bambini che era completamente fuori controllo e stava facendo di tutto. Uno in particolare, un bambino in particolare, continuava a salire sopra un altare, una specie di memoriale, e si lanciava giù. E quando vado a prendere questo bambino, vedo che il memoriale aveva una data sola scritta sopra, e la data è 8 febbraio 1944. E penso tra me e me, maledetti nazisti. Però poi, curioso, cerco di capire chi ha fatto quei morti commemorati lì. E non sono stati i nazisti, sono stati gli alleati, i nostri alleati. E ho guardato nel registro del bombardamenti dell'esercito alleato, che dice così: 8-2-44, dalle 3.08 alle 5.20, bombe sganciate 180. Secco, burocratico, quasi commerciale, entrate e uscite, dal prospetto dei bombardamenti del comando alleati in Italia. Poco dopo mezzanotte suona l'allarme a Padova. È il terzo bombardamento della città, il primo notturno. L'obiettivo non è preciso, anzi sì, c'è un obiettivo preciso, che è portare il terrore in città. L'obiettivo è terroristico. I padovani non lo sanno, ma della notte non si occupano gli americani, ma gli inglesi. Usano i Lancaster, che sono non sono le fortezze volanti, sono degli altri bombardieri. Lo chiamano gli inglesi, lo chiamano il Lanky. Un quadrimotore da bombardamento notturno più riuscito di tutta la Seconda Guerra Mondiale. Una enciclopedia inglese dice che ha recapitato 608.612 tonnellate di bombe in 156.000 missioni. Così lo ricorda l'enciclopedia, con un po' di orgoglio nazionale anche. E l'enciclopedia sembra la pubblicità di un'auto. 4 motori Rolls Royce, 8 mitragliatrici, ampia stiva bombe, più di 10 metri di lunghezza. Può scaricare i biscottini cookies da 2000 kg e fino alle Tall Boy, le Grand Slam e le bombe terremoto da 10.000 kg. Il tutto al modico costo, convertito in sterline attuali, di 1,5 milioni di sterline. Se pensate che una sterlina e mezzo vale circa 2,30 euro, fate voi il cambio. Tutti i padovani corrono ai rifugi, nei bastioni veneziani. Al bastione dell'impossibile, che con un nome così porta pure bene, ci si arriva per 2 passerelle di legno, una da dove oggi c'è il centro Koeffler e l'altra da dentro per via Raggio di Sole. 800 bambini assonnati, donne, vecchi, fagotti con pochi beni, un po' di cibo, le suore del collegio che pregano, tutti dentro. E continua a entrare gente nei bastioni, anche mentre le Pathfinders, le squadre aeree di segnalazione, marcano i bersagli con i bengala paracadutati. Ogni zona un colore diverso, bombardamento chirurgico. I bengala illuminano la polvere alzata dalla gente in fuga come branchi di animali spaventati. Il bombardamento inizia, la terra trema. 3 bombe colpiscono il bastione. Una bomba, l'ultima, quella intelligente, entra per un cunicolo nel rifugio. Da fuori, dalle mura, tra i campi, mia madre vede un gran bagliore. La volta della galleria si stacca. Buio. Grida. Pianti. È un prete che grida «Silenzio! Do la soluzione in articulo mortis!» Un testimone. Dice «Oggi. Mi dimentico di quello che ho fatto ieri, ma della guerra non mi posso scordare. Ero vicino all'ingresso. Sento un gran pugno allo stomaco dello spostamento d'aria. Mi butta fuori e mi salva la vita. Con la bocca piena di polvere e le narici intasate. Dopo un'ora arrivano i primi soccorritori. Rientra anche il nostro testimone e trovano con le torce un tappeto di cadaveri straziati. Una scarpa con un calzino e un pezzo di gamba. Uno scalpo grigio sulla volta del rifugio. C'è chi prega e chi piange. 200 civili, vittime collaterali. Adesso c'è una scuola e la mattina ci sono le grida dei bambini. Adesso non si fa più, ma per anni i sopravvissuti portavano le rose al bastione. Dammi i tuoi folli baci, stringimi accanto a te, chiudi i tuoi begli occhi, amore, taci, voglio sognar con te, ti parlerò d'amore e coglierò una rosa sulla tua bocca ansiosa che non conosco ancora, ti parlerò d'amore con voce sospirosa. Non c'è più dolce cosa per far tacere il cuore. L'insurrezione di Padova. La pioggia mattutina, la gioia, la Simonetta. Nell'aria elettrica, col suo golfino grigio perla e il mitra ad armacollo. L'insurrezione di Padova fu un fatto abbastanza importante. La nostra felice trovata di primavera. Eravamo nelle strade, armati, eccitati, giovani. Finiva la guerra con notevoli atti e spari. Eppure, devo confessare, che la cosa più importante mi pareva lei. La figuretta aggraziata, il viso serio, serio da insurrezione. Avrei voluto dedicarmi a contemplare lei, insorta. Ma c'era da fare. La covata di Spartaco si disperse per la città. Prima a promuovere l'insurrezione, poi a tentare di dirigerla. Un sacco di gente cominciava a farsi avanti e l'impressione generale era che ci venissero molto fra i piedi. I più importanti erano riuniti presso i padri gesuiti. Stavano nella sala d'ingresso, in crocchi, discutendo. Dalla strada si vede il Pra della Valle. C'era un'automobile ferma in mezzo alla via selciata con un muro dall'altra parte. Dall'altra ancora i portici. Qua e là c'erano gruppetti di partigiani. Come in uno scherzo. Cominciarono a esplodere proiettili tutto attorno. Agli strappi sulle lamiere dell'auto riconobbi la mitraglia da 20. Sparavano dal Pra della Valle, infilando tutta la strada. Sarà stato un plotone. Si distingueva qualche elmetto sotto gli archi in fondo al Pra. In due o tre ci mettemmo dietro i pilastri e cominciammo a sparare anche noi. Faceva l'effetto di tirare piselli con la fionda. La macchina bruciava. Provai ad avvicinarmi un po' ai mitraglieri. Anche gli altri, per conto loro, cercavano di fare lo stesso. Il portico era pieno di cose che rimbalzavano. Feci due pilastri. Al terzo c'era un ragazzo seduto per terra. Voltato all'indietro, sulla spalla gli si era formata una macchia di sangue. Cercai istintivamente le gocce sul marciapiede, ma non ce n'erano ancora. E pensai, con grande compiacimento, più 48 di così si muore. Poi lo tirai sotto il portico. Le sparatorie continuavano. Ogni tanto i tedeschi dal fondo al Pra spazzavano la strada con le loro cartocciate di mitraglia. Se sono anche solo una dozzina, pensavo, e volessero venire proprio qui, chi glielo può impedire? Sono 5 anni che fanno pratica. Una strada più, una strada in meno, per loro fa lo stesso. Così entrano dai gesuiti e ammazzano i pezzi grossi che stanno disputando su chi farà il discorso in piazza. E poi magari ammazzano anche i gesuiti. E quasi quasi se lo meritano. quegli incoscienti. Poi però pensai di andarli almeno ad avvertire. Attraversai di corsa il tratto scoperto fino al palazzo. Ma quando entrai dall'ingresso nella sala, lo spettacolo di questa gente che ci calava frammischiata ai gesuiti mi fece perdere il senso della misura. Mi misi a gridare come un ossesso. La folta adunanza tacque. Il rumore della mia rabbia mi infuriò ancora di più e senza volerlo cominciai a bestemmiare ad altissima voce, intercalando i pezzi nella comunicazione che intendevo fare. Non so se nella sala dei gesuiti, nell'intera storia dell'istituto, si fossero mai udite bestemmie a voce così alta. I presenti mi ascoltarono senza proteste, ma anche senza vero interesse. Poi si voltarono di nuovo a formare i loro crocchi. Tornai nel sottoportico con gli altri, irritatissimo. Eravamo in 3 o 4, facevamo le corsette tra i pilastri, incrociandoci a zigzag, tirando un po' di piselli per rappresentanza. Quando i tedeschi si decisero a venir fuori, mi dissi: ci siamo. Questo è il momento delle bombe a mano. Tanto non serve a niente. Gli sta anche bene a quelli là. Ma i tedeschi, un gruppetto di signori vestiti di chiaro, stranamente avevano alzate le mani e le tenevano su. Maria Vergine! Non li avevo mai visti così i tedeschi. Quasi mi spaventai. Dalla destra vidi irrompere una frotta di borghesi armati. Corsi fuori e feci in tempo a gridargli: «To, teneteli voi in consegna!» prima che se li fagocitassero di propria spontanea volontà. Di sparatorie grosse, io non ne vidi altre quel giorno. Solo qualche raffica che mi tiravano isolatamente da finestre e abbaini, di solito a una svolta di strada, e io a loro. Loro a me non fecero niente, e forse neanch'io a loro. Così siamo pari. La guerra era finita. È nostra patria il mondo intero, è nostra legge la libertà, ed un pensiero, nostra patria il mondo intero. Nostra legge è la libertà ed un pensiero, salvar l'umanità. Cosa dicono le parole? Disse l'ufficiale inglese. Che finisce la guerra, dissi. E poi aggiunsi: e che ci interessa molto la salvezza dell'umanità. E l'ufficiale disse: you... a poet? Sei un poeta? Gli circondai l'orecchio con le mani e gridai dentro: just a fucking bandit. Così accompagniamo a Padova l'ottava armata e poi io e la Simonetta andammo a dormire e loro li lasciamo in una piazza. Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero, nostra patria è il mondo intero. La nostra legge è la libertà ed un pensiero ribelle in cuor ci sta. Andrea Pennacchi, Giorgio Gobbo, Sergio Marchesini della piccola bottega Baltasar. Grazie.